cazzo, bro? Ma come si chiama questo disco? Ma guarda, me l'hanno passato ieri. Minchia, una mina, zio. Quanti soldi? Ma che? Il free download su myspace.com/schizzoHH. Senti qua. Siano sul tavolino, raga, adesso che facciamo? Negozi tutti chiusi, cazzo, adesso dove andiamo? Stai calmo, non pensarci che io ho una mezza idea. Montiamo tutti in macchina che andiamo su all'Ikea. C'è rotto il tavolino, raga, adesso che facciamo? Negozi tutti chiusi, cazzo, adesso... Bella, bro, c'ha ragione, cazzo, andiamo all'Ikea. Vai, dai, gassa sta merda di macchina.